9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, buon 20 di settembre per coloro che appartengono, si sono formati, la mia tradizione il 20 settembre è un giorno che ha un significato perché insomma la fine della questione romana, come devo dire, lo so che la fine della questione romana arriva poi con il concordato, in realtà molti sostengono che questo sia l'inizio della questione romana, insomma Roma, Roma nell'Italia 1870, però lo ricordo solo perché ogni tanto un po' di ripasso di quale sia la nostra storia recente, recentissima, di paese purtroppo arrivato tardi a essere unito e che forse non lo è ancora e che oggi è solo unito nella crisi purtroppo. Comunque, buon 20 settembre e buon Sant'Eustachio. Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no, no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo solto l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E io apposta vi ho fatto sentire questa strofa perché lo avete sentito, questo bel mondo in cui c'è solo odio e niente amore, in cui sono tutti pronti a tagliarti una mano. È una idea, è una rappresentazione ideale a volte di quello che ci propone la politica di giorno in giorno, con questa vicenda della Regione Lazio che si espande per pagine e pagine, con queste auree fotografie del costume severo dei consiglieri regionali che fanno feste a Cinecittà truccati e vestiti da maiali, e non si troverebbe una maniera migliore per esprimere la metafora di ciò che sono e ciò che rappresentano agli occhi di centinaia di migliaia di milioni di italiani, invece, che naturalmente se la passano un po' peggio del fatto di dover festeggiare di essere rieletti con ancelle seminude, armature e loriche addosso. Quel che colpisce non è tanto, prima della cosa penale, se ne occuperanno i magistrati, ma è la mancanza assoluta del senso della misura, l'autopercezione di sé espansa in una specie di galassia, è pazzesco. Poi dicono che uno ha problemi se pensa che ci siano dei tratti antropologici nel mancato rispetto da parte della politica delle regole più elementari della decenza. Perché questa introduzione? Perché oggi scegliamo di tornare a un classico della programmazione di Radio 24 in questo 2012 terribile. E certo lo ricordate anche voi quando da marzo a giugno abbiamo ogni giorno aperto i nostri microfoni e prestato le nostre voci alle migliaia di storie che venivano all'indirizzo Disperati Mai. Questo era il nome dell'iniziativa che Radio 24 intrapresa per dare ascolto e dare voce alla rottura di continuità grave, profonda, intensa che si verifica in questo 2012 nel cuore profondo della piccola impresa italiana, quella che lavora per il mercato domestico, artigiani, commercianti, professionisti, partite IVA, sì, esattamente quella miriade di frazionate imprese piccole che giustamente noi critichiamo sempre nei convegni perché sono piccole, sono sottopatrimonializzate e questo è un limite, quello dimensionale, quello del patrimonio per fare più valore aggiunto, per crescere nella catena dell'innovazione e nella costruzione di catene di fornitura e di distribuzione che siano tali da consentire loro di andare verso i nuovi mercati. Eppure è il cuore profondo, poi è la spina dorsale dell'Italia, che crede nell'autoimprenditorialità, che crede nella fatica, nella dignità e nell'onore di aprire una serranda ogni giorno con un numero ristretto di propri collaboratori con i quali fare famiglia e con i quali fare impresa. E quindi anche oggi torniamo a dare voce ad alcune delle lettere che, appena è finito agosto, hanno iniziato copiosamente a tornare al nostro sito Disperati Mai. E allora mi sono detto: ogni tanto noi dobbiamo tornare a svolgere questa funzione, ed è una funzione per richiamare la politica rispetto a quelle vergognose e scassate immagini romane, alla durezza invece di ciò che colpisce nel portafoglio e nel cuore gli italiani. Non lo so, mi sembra questa incapacità dei partiti di capire è veramente un regalo stratosferico che ogni giorno realizzano alla protesta pura, alla protesta dura, alla protesta motivata. Vi dirò che certe volte mi chiedo se anche il mio www.fermarealdeclino.it sia abbastanza convinto com'è di essere un illuminista proposta per cambiare la marcia alla politica economica, al sostegno al reddito di chi non ce l'ha, per fare una legge sul conflitto di interesse, perché è ovvio che si viene travolti rispetto a queste emotività e alla fine sarà la protesta dura probabilmente a vincere. Però ovviamente, per chi fa l'osservatore e tenta di dire che esiste un'alternativa a questione di politica economica, più che proporre alternative su questo, è difficile che possa battere Grillo nel fare il grillo, per così dire. Allora cominciamo con un'ascoltatrice che ci ha mandato una lettera in cui è un ingegnere civile a partita IVA dal luglio del 2007, e sentiamo da lei. Si chiama Lorenza Cavatorti. Buongiorno. Buongiorno a tutti, salve. Allora, lei ci ha mandato una lettera nella quale si fa i conti in tasca, per così dire. C'è la voglia di percorrere? Sì, i cosiddetti conti della serva. Quando mi è arrivato il bollettino MAV del mio ente di previdenza, ho deciso di fare un resoconto rapido delle mie finanze, insomma, entrate e uscite. E praticamente, essendo iscritta alla partita IVA da luglio del 2007, diciamo che non ho potuto partecipare al nuovo regime dei minimi e quindi sono in un regime tra virgolette normale, quello di tutti i liberi professionisti, tutti quelli che hanno degli studi di ingegneria abbastanza grossi. Io però ho, diciamo, un limite di fatturato che deve essere entro i 30.000 euro. Questi 30.000 euro ovviamente però hanno l'IVA da pagare, cioè da mettere, poi c'è l'IRPEF e poi ovviamente c'è l'ente previdente di previdenza. E 30.000 euro meno l'IVA, che sarebbero 6.300, l'IRPEF, che sono all'incirca sui 1.000 euro solo e soltanto perché comunque ho 8.000 euro di spese. E poi come ente previdenza mi chiedono 4.000 e passa euro, ecco, insomma, diciamo che alla fine ho tra i 11.000 e 12.000 euro l'anno. E quindi sono meno di 1.000 euro al mese, sono meno. 945 euro. Esatto, circa sì. Il problema, cioè, fondamentalmente a me non si pone, nel senso che comunque per la bontà di mio padre ho messo lo studio a casa mia e mio padre non mi chiede neanche l'affitto e quindi, cioè, non ho neanche degli affitti da pagare, però ecco, diciamo, quando poi ci si pensa e si dice ma vabbè, all'età di 33 anni magari una famiglia bisognerebbe farsela, si dice sì, ok, con quali soldi, come si fa? E quindi niente, rimango così per un attimo e ho detto quest'anno ci provo, il prossimo anno farò i conti. Quest'anno ci ho provato e non ci sono riuscita. Senta, quindi, quando lei ha intrapreso la via universitaria di ingegneria civile eccetera, cosa immaginava? Ma sicuramente una cosa totalmente diversa, cioè poi neanche diversa. Io immaginavo le soddisfazioni che comunque ho, perché sono veramente tante, belle, emozioni. Io non riuscirei a essere, diciamo, una di quelle persone che al mattino si svegliano alle 7 per andare a timbrare il cartellino e stare lì a scaldare la seggiolina. E diciamo che facendo ingegneria mi ero già presupposta di essere una persona molto attiva sia nel campo del lavoro sia diciamo nel campo umano, no? Perché comunque sono soddisfazioni che si hanno. Dopo poi però sì, la situazione è cambiata, insomma. Immaginavo che comunque ci sarebbe stato molto difficile, perché comunque sapevo, già venivo comunque da un'esperienza antecedente da geometra, quindi sapevo benissimo che ci sarebbe stato da lottare con i committenti, gli ingegneri stessi, gli architetti, gli impresari, però alla fine soddisfazioni e mi prefiguravo questo ed è stato. Peccato che dal lato economico puntini. Oh, naturalmente lei poi ha la bella fortuna di per 5 mesi essersi perso il regime dei minimi. Questo è stato veramente uno smacco, a questo punto devo dire morale, perché ho cercato di aprire partita IVA immediatamente per cercare appunto di non fare del nero, perché non le dico le situazioni che si sono profilate quando mi hanno proposto appunto dei lavori, cioè praticamente era tutto in nero. E io ho detto no, apro la partita IVA, sono una persona onesta, voglio fatturare tutto perché è giusto che sia così. E io quindi appena ho avuto l'abilitazione e tutto, ho aperto immediatamente la partita IVA, mi sono iscritto immediatamente all'ordine, al mio attivissimo ordine, e ovviamente però sono stata a sfide troppo precipitosa. Per 5 mesi mi sono persa il nuovo regime dei minimi, che effettivamente è molto conveniente. Perché si tratta di un forfè del 5%. Esattamente, cifra di tassazione diciamo forfettaria, quindi sì. E invece io mi ritrovo, non so che cifra sia, però sicuramente più del 40. Allora Lorenza, naturalmente c'è chi dice, Lorenza, certo, per essere un ingegnere e guadagnare €900 al mese, capiamo gli sforzi che ha fatto per migliorare la qualità del suo capitale umano, ma insomma, lavoro. Dovessi misurare Lorenza nel settore dei liberi professionisti che hanno il tuo titolo, che insistono nel tuo settore, territorialmente, le cose in questi anni come stanno andando e quali sono i segnali che, a cui assistite adesso nel settore? Diciamo che i segnali non siano positivi, perché la torta è sempre più piccola e diciamo i commensali sono sempre di più, quindi bisogna adesso. Si parla anche di, poi si va in questioni politiche, io non voglio assolutamente toccare, ma si parla anche di abolizione di tariffari, e quindi adesso c'è un gioco al massacro, cioè i grandi studi riescono appunto a tenere degli onorari molto bassi, quasi anche un pochettino, cioè un po' vergognosi, perché comunque insomma una dignità al nostro lavoro dovremmo darla, anche perché insomma noi siamo per l'incolumità della vita, quindi cioè, noi combattiamo tutti i giorni contro il terremoto, tanto per dire, e quindi sì, diciamo che i segnali sono abbastanza negativi. Io sinceramente spero che cambi, perché comunque effettivamente siamo in tanti. Agli studi piccoli ovviamente arrivano le briciole, agli studi grandi ovviamente si prenderanno la fetta più grande. Però sì, ecco, anche loro secondo me non è che ci vanno poi tanto a guadagno. Va bene, cioè si fa per dire, insomma, nel mentre l'Italia è così, finalmente apprendiamo che un'altra di quelle aziende pubbliche di cui ci dicevano che era inutile addirittura questo, invece la RAI, sto parlando della RAI, quella che ovviamente ci prende il canone malgrado sia una televisione commerciale e molti di voi la difendono dicendo che è servizio pubblico, apprendiamo naturalmente che la cosa degli attivi della RAI nel conto economico di gestione di quest'anno era una menzogna, perché il buco è nell'ordine di 200 milioni. Ora, vi rendete conto che coi tempi che corrono, mentire sui conti è una cosa che un privato vedrebbe arrivare, la procura di Taranto, il GIP di Taranto, con la 231 si interromperebbe la continuità aziendale. Solo lo Stato si può permettere di mentire regolarmente sui conti di aziende che rubano i soldi dal contribuente, però non succede mai niente quando mentono sui conti. Anzi, bisogna battere le manine, naturalmente alla nuova RAI della signora Anna Maria Tarantola, che venendo dalla Banca d'Italia fa pulizia, chiarezza e trasparenza ed è stata nominata dal governo Monti. Ma la mia rabbia livida è che non avviene nulla a chi ha mentito per anni in Rai, mente sull'originale natura di un servizio pubblico che non è servizio pubblico ma è servizio dei partiti, mente sull'andamento dei conti, mente sul fatto che tutte le nomine sono solo di partito, mente da sempre. Io ho sempre vinto in tribunale cause di questo tipo, quindi sono stato anche trascinato dall'azienda a risponderne. Naturalmente ho dovuto pagarmi gli avvocati, non ho pagato loro perché per il momento non ne hanno mai vinta una. E poi bisogna apprendere che c'è un buco di 200 milioni che come al solito finisce nelle pagine tecniche dei giornali, mentre la condizione degli italiani è di sbattersi dopo una vita intera per stare, quando va bene, nelle condizioni di quelle come Lorenza, quando va bene, perché Lorenza tutto sommato, per come vanno le cose in Italia, certo non si può lamentare rispetto a chi si trova con l'azienda chiusa, senza sapere più come pagare l'affitto, avendo perso il posto di lavoro proprio e non sapendo più come pagare i dipendenti. Ma vedete i due pesi e due misure che descrivono perché siamo diventati inevitabilmente e irrimediabilmente sudditi in questo paese? Che volete che sia apprendere che la RAI perdeva 200 milioni mentre ci dicevano che era inattivo? Lo facciamo spallucce, non ci meravigliamo neanche più, sono solo 400 miliardi di lire, no? Di buco mentito e denegato in un anno, e che ci stupiamo più per cose che non siano di miliardi di euro? E beh, quando si perde la misura dello scandalo pubblico, vuol dire che il pozzo pubblico dell'atrocinio è senza fine, e quando ci si abitua a questo si è schiavi nell'anima. Questo è il problema, è esattamente la condizione nella quale i politici, purtroppo, senza generalizzare, però mi dispiace, un po' è questo, perché la RAI è la RAI dei politici, con tanti signori professionisti e giornalisti che ci sguazzano per fare carriera, questo è, non è che i giornalisti sono immuni dalle critiche, ma quando si perde la misura dello scandalo e 200 milioni di menzogna nel conti RAI diventano poche righe in una pagina tecnica, questo dà l'idea di a che cosa ci siamo abituati nello Stato. Allora, intanto vi leggo un'altra lettera di quella che è arrivata qua all'indirizzo di Disperati Mai. Se la riacchiappo, eccoci qua. Questa lettera è una lettera che Cristian Chiesa ha mandato al Garante del Contribuente. Gentile Garante del Contribuente, oltre che a noi ovviamente, al Garante del Contribuente, alla direzione regionale Lombarda dell'Agenzia delle Entrate. Allora, Christian è un professionista di 40 anni, sposato con un bambino di 8 anni, ci scrive. Da 7 anni a questa parte, dopo essere stato dimissionato dalla società bancaria per cui lavoravo, svolgo l'attività di agente immobiliare con tutte le difficoltà del caso, intervenute soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2008 e che sono culminate in questi mesi praticamente in una situazione, la mia attuale, di dover cessare l'attività e cercarmi un altro lavoro. In seguito alla cessazione della mia precedente posizione lavorativa, ho intrapreso un ricorso nel 2006 contro la società di allora per far valere i miei diritti. Finalmente nel 2011, dopo una sentenza di primo grado che respingeva le mie richieste, ho visto riconosciuti seppur parzialmente i miei diritti. E una sentenza, infatti, della Corte d'Appello di Milano mi ha attribuito un risarcimento di 60.000 euro circa. 60.000 euro. Peccato però che nel frattempo, ho dovuto aspettare più di 6 anni per la sentenza di secondo grado, la società in questione da cui dipendevo è andata in concordato preventivo. E l'unico motivo per cui questa società non è ancora fallito è il fatto che a propria volta vantava un credito nei confronti dell'erario di 13 milioni circa. Cioè, capite, Christian si trova nei confronti di un'azienda che lo manda fuori, lui vince la causa ma deve aspettare 6 anni. Nel frattempo lui perde il lavoro in cui sta. I 60.000 euro di cui che ha aspettato 6 anni per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento non li può prendere, però, perché nel frattempo l'azienda è in concordato, quella che lo aveva buttato fuori, e a propria volta però c'era finita perché era lo Stato che non pagava i soldi all'azienda. Questo per dare l'idea, una perfetta sintesi del guaio italiano. Allora, cosa fa Christian? Scrive al Garante. Perché? Perché dice: vi scrivo per anticipare che, avendo sostenuto tutti i versamenti di tasse e contributi INPS fino all'ultima rata pagata il 17 settembre, a partire dalla prossima scadenza, dal prossimo mese, cioè il 16 ottobre, non sarò più nella condizione di effettuare i pagamenti. Gli affidamenti avuti dalle banche sono utilizzati completamente ormai, e avendo acceso negli anni scorsi un mutuo di 80.000 euro per finanziare la mia nuova attività, al momento non sono finanziabile ulteriormente. La mia priorità in questo momento è quello di sostenere l'affitto di casa e il mantenimento della mia famiglia. ora si avvia la chiusura, Cristian. Sono consapevole del fatto che non esistono procedure per cui sia possibile compensare direttamente il mio debito, cioè i 60.000 euro che gli deve la società che l'ha sbattuto fuori. Lui ha aspettato 6 anni per la giustizia e questa società è al concordato perché aspetta i 13 milioni pubblici. Allora lui dice: io lo so che da quei 13 milioni pubblici che aspetta la società andata in fallimento non mi potete dare i 60.000 euro. Però in definitiva io stesso, sostiene Cristian, sono creditore nei confronti dello Stato di 60.000 euro e per come sono le leggi e le varie procedure collegate, a meno di un vostro intervento, incorrerò in sanzioni e interessi di mora per non essere nelle condizioni di versare io allo Stato i 5.000 euro circa che mi mancano per saldare la mia posizione con le tasse per l'anno 2011. Molti ripetuti solleciti, caduti nel vuoto, il commissario competente della procedura in corso ha allargato le braccia perché dice: non ci posso fare niente, e quindi... lui si rivolge al garante del contribuente per dire: bisogna accelerare il rimborso a questa società che è in concordato perché mi possa dare ciò attraverso cui io posso pagare lo Stato, perché altrimenti siamo tutti in una catena di torti rispetto alla posizione di Cristian, che è una posizione invece riconosciuta di diritto. Però il ridicolo è che per i torti altrui io divento un trasgressore della legge fiscale e mi arrivano le cartelle erariali. Vi prego, questi 60.000 euro che mi spettano sarebbero per me e la mia famiglia fondamentali per superare questo momento davvero drammatico. Grazie per l'attenzione. Perché vi ho letto questa lettera? Perché un paese in cui la giustizia non funziona, bisogna aspettare 6 anni perché un lavoratore buttato fuori vede riconosciuto il suo diritto, è un paese in cui è lo Stato a non funzionare. Perché un paese in cui i 60.000 euro di cui dopo 6 anni gli si riconosce il diritto, che sono l'unica fonte, avendo lui perso il secondo lavoro, per poter ottemperare all'obbligo fiscale e non diventare un criminale fiscale, è lo Stato che non gli dà alla cosa in concordato fiscale. E infine terzo, perché il fatto di diventare un trasgressore fiscale è lo Stato che prende da una mano ma non dà con l'altra a fare questa ingiustizia. Un'altra perfetta sintesi di come siamo sudditi, indegnamente abbiamo accettato di farci trattare da questi miserabili che poi pretendono anche di essere seminatori di un'etica pubblica e fanno lo spot contro i parassiti. Chissà chi è il primo parassita, eh? Prima parlavamo di una professionista che fa i salti mortali, poi abbiamo parlato di un italiano che ci mette anni per avere il suo diritto riconosciuto in tribunale, però comunque diventerà un evasore fiscale perché lo Stato non è in grado né di fare funzionare la giustizia né di dare all'azienda che l'ha buttato fuori 13 milioni di crediti fiscali che quell'azienda vantava, e senza i 60.000 euro di cui lui ha atteso anni il diritto, avendo perso il lavoro nel frattempo, anche potendo certificare tutto questo, però lui diventerà un evasore fiscale. Facciamo un altro passo invece verso un'altra delle caratteristiche delle crisi irrisolte del nostro paese. Questa volta è la storia di un'impresa in crisi. Ci spostiamo in Toscana, stiamo parlando di cantieri navali, stiamo parlando della realtà dei nuovi cantieri a Puania, siamo a Marina di Carrara, e la storia è di un cantiere navale pubblico che è in perdita, perde milioni di euro l'anno, ai lavoratori in cassa integrazione, e Invitalia in questi ultimi anni a partecipare totalmente al suo capitale, e un cantiere che ha 150 dipendenti, quindi non stiamo parlando di una piccola realtà. E per questo cantiere, i cantieri di nuovi cantieri a Puania, c'è da mesi una vicenda aperta, perché c'è un'offerta che è avanzata da un grande gruppo della nautica di superlusso che ha sede a Zurigo, Ocean Independence. E in sintesi estrema, ma ce la facciamo raccontare meglio per vedere a che punto è la vicenda, la cosa singolare è che di fronte alla disponibilità di questo gruppo di rilevare il cantiere con un programma di refitting, cioè di manutenzione di grandi yacht, che è una delle cose in cui chi ha più eccellenza da offrire si aggiudica naturalmente flussi per tutto il Mediterraneo, perché è un segmento elevato, per così dire, della manutenzione, e questo è un cantiere importante, fa navi importanti, quindi questo sarebbe il progetto degli svizzeri. Però cosa succede? Succede che in realtà le autorità locali, i sindacati, non ci sentono, perché non vogliono uscire dal pubblico, perché non si fidano: ma chi sono questi svizzeri? Non ci piace il piano industriale, non mantiene tutti quanti, e così via. E quindi dicono no. Ecco, vediamo un pochino che cosa c'è di più e di meglio in questa storia rispetto a quello che dall'esterno posso raccontare io in questa sintesi. E con noi Maurizio Cei, che è un azionista italiano e un compartecipante alla cordata di questa offerta. Buongiorno e grazie a Maurizio Cei. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto, rispetto alla situazione che ho descritto, visto che si attendevano delle scadenze per settembre, perché il 16 agosto scadeva l'esclusiva di questa offerta di Ocean Independent per la proposta di acquisto e poi si attendeva un'ulteriore proposta. A questo punto a che stadio stiamo della vicenda? Sì, noi abbiamo presentato, a seguito della scadenza dell'esclusiva, abbiamo presentato un'offerta irrevocabile per l'acquisto del cantiere. Offerta irrevocabile che scade fra una settimana. L'offerta prevede la conversione, come lei ha detto, del sito produttivo da un'area di navalmeccanica in un centro di eccellenza per la manutenzione per i refit di grandi yacht. Mi preme ricordare che questa proposta nasce da alcune considerazioni di mercato che vorrei brevemente ripercorrere. La navalmeccanica, intesa come costruzioni di navi commerciali da crociera, soffre da molti anni della concorrenza del Far East, Cina, Corea e Giappone in primis. Per contro, il mercato del refitting presenta una fortissima domanda per gli yacht di grandi dimensioni, domanda a due cifre crescente, che non ha risentito della crisi delle nuove costruzioni e che oggi non trova risposta nel Mediterraneo, se non parziale, dagli attuali operatori. Oggi questo mercato quindi è soddisfatto da cantieri spagnoli, francesi o nord europei, perché in Italia non c'è un'offerta qualificata a sufficiente. Ecco che questo ha fatto emergere un grossissimo potenziale per Aquania, grossissimo potenziale perché Aquania ha delle infrastrutture eccellenti, adeguate quindi alla domanda di cui stiamo parlando, anche se vanno adattate, e da qui gli investimenti che abbiamo previsto nell'ordine dei 25 milioni, ma soprattutto nell'ambito del personale di Aquania ci sono delle competenze navali eccellenti, professionalità sottoutilizzate, perché molti di questi oggi sono in cassa integrazione, e per di più dedicate a un business in perdita. Questa è la situazione attuale. Riferimento alle autorità locali e ai sindacati. Noi abbiamo portato avanti questo discorso con il Ministero e con Invitalia per circa un anno e mezzo. In questo periodo abbiamo messo a punto le modalità di acquisizione, messo a punto il piano, anche verificato le possibilità di accedere a strumenti di finanziamenti agevolati per gli investimenti o per la riqualificazione del personale. Questi strumenti hanno una matrice sia nazionale che comunitaria. Ovvio, un anno e mezzo è un periodo molto lungo, anche e soprattutto per un investitore straniero, però devo rilevare alcune vischiosità tipiche della pubblica amministrazione, ma alla fine ci siamo riusciti. Ma il bello è che quando abbiamo finalmente messo a punto il piano abbiamo trovato lo scoglio, le autorità locali e sindacati, che sinceramente non ci aspettavamo. Perché non magari dico voi che dovevamo... pensavate che rispetto alla protrazione, nello stato di crisi, cassa integrazione, perdite pubbliche, vi aspettavate forse un po' ingenuamente che vi battessero le mani dicendo però ci sono dei privati pronti a rilevare. Invece? Certo, e invece no. E invece loro ritengono che il piano non salvaguardi, cioè non accettano il piano in quanto non salvaguarderebbe tutti i posti di lavoro e soprattutto non manterrebbe la valenza industriale e costruttiva del cantiere. Ora, sui posti di lavoro, il nostro piano prevede un assorbimento immediato di circa 110 persone su 150, a cui però, nell'arco del periodo che alla fine degli investimenti, prevede un indotto che è stimabile in oltre 350 unità. Questo perché? Perché c'è un periodo di investimento di circa 2 anni in cui non è possibile avere tutto il personale che lavora, in quanto ci sono i lavori di ristrutturazione da fare. Dall'altra parte, sappiamo tutti che questa è una possibilità di attrarre investimenti dall'estero e il lavoro dall'estero, che genera un volano la cui stima oggi è difficile, ma che in altri casi all'estero ha generato un indotto 6-7 volte maggiore alle persone direttamente impiegate dal sito produttivo. Faccio riferimento a quello che hanno fatto gli altri paesi. In Germania, in Olanda, in Francia, la navalmeccanica è stata riconvertita negli anni 90. Tutti i più grossi cantieri di yacht al mondo erano navalmeccanica. Parlo soprattutto di Germania ed Olanda. In Francia, nello specifico, vicino a Marsiglia, c'è una realtà che si chiama la Ciotat, che negli anni 70 impiegava 5.000 persone che facevano lo stesso mestiere di Aquania. negli anni 90, inizio 2000, ha chiuso completamente. Lo Stato ha investito in nuove infrastrutture, oggi questa realtà è rinata, ci lavorano migliaia di persone e ci sono 35 operatori del settore yachting. Questo è il modello a cui ci siamo ispirati, non abbiamo inventato niente, abbiamo soltanto detto, vediamo dove c'è un qualcosa che funziona. Allora, e guardi, oggi Papuania ha le caratteristiche per fare questa cosa. Allora, come ho detto, cioè, prendiamo un impegno di continuare a seguire la vicenda se i no continueranno. Questa è un'altra struttura del pubblico italiano. Pretendere dal privato che arriva, essendo l'azienda pubblica fallita, non so se è questo, è chiaro questo, cioè non ce l'ha le commesse per fare nuove navi e il cantiere di navalmeccanica, nuovi cantieri a Buani, non ce l'ha, sta terminando la lavorazione alla consegna dell'ultima e il suo portafoglio ordini è vuoto, cioè, malgrado naturalmente le autorità pubbliche locali e il sindacato pretendono loro di dire questo è il settore in cui bisogna stare, la stessa cosa a cui assistete tutte le sere a tutti i talk che vi fanno, che vi spiegano che siamo tutti come i commissari tecnici della nazionale al bar la mattina, tutti la sera diventiamo tutti autori di piani industriali e sappiamo con certezza, al posto del privato che ci mette soldi e rischia, che sta sbagliando lui a volere fare il refitting di grandi yacht. Dice, ma non c'è una commessa per continuare a fare navi? Ma certo, non c'è oggi, ma ci sarà domani. Tu intanto mantieni tutto così com'è. La difesa del lavoro, dov'era e com'era, anche di fronte all'evidenza che il tipo di organizzazione, di specializzazione dell'impresa non funziona più, è un classico difetto del sistema pubblico italiano. Naturalmente tutti in buona fede a quel punto credono che la difesa di qualcuno che paghi, lo Stato ovviamente, il contribuente, il posto di lavoro, è meglio piuttosto che cambiare. Errore, quindi questa vicenda che ci ha illustrato Maurizio Cei è un altro segno del fatto che mentre da una parte c'è un'Italia che soffre il reddito, il patrimonio, che perde lavoro, che perde imprese eccetera, dall'altra la lentezza con cui facciamo conversione, un anno e mezzo e non si ha ancora la risposta da parte di chi ci vuole mettere i soldi, 25 milioni, un anno e mezzo, la lentezza è quella di un paese che pensa di potersi permettere di perdere anni prima che qualche privato sparuto inizi davvero a fare quello che vuole fare, perché gli si dice no nel frattempo. Ma dove vogliamo andare con queste regole? Dove vogliamo andare? Sentiamo rapidamente Fabio della provincia di Mantova. Prego Fabio. Buongiorno, buongiorno Lino. Senta, io faccio una piccola premessa. I numeri, io sono artigiano e come dire, ho difficoltà con il lavoro, perché praticamente io lavoro nell'edilizia. Praticamente l'edilizia ci chiede un certificato, si chiama DURC, penso che moltissimi... Sì, ne abbiamo più volte parlato, del paradosso sì. Del DURC. Esatto, è un paradosso in effetti, perché intanto i numeri sono questi. Io come artigiano ne conosco tanti altri nelle mie stesse condizioni. Praticamente non siamo, siamo impossibilitati a lavorare nei cantieri. La conseguenza è quella, diciamo, logica e naturale, quindi non possiamo versare i contributi, perché se non lavori, certo, non versi i contributi, quindi è già un autogol da parte, diciamo, dello Stato, insomma, del sistema fiscale. E questo perché questo DURC, praticamente lo spiego, cioè lo dico, insomma, per quelli che non sappiano che cosa sia, è un certificato di regolarità contributiva INPS e INAIL. Ecco, ad un artigiano può capitare, insomma, di non avere soldi, insomma, immediati per pagare, insomma, per far fronte a cose di questo tipo. Ma il problema è che a quel punto non c'è il certificato e non lavori. E non lavori, perché è tutto legato ad Equitalia, nel senso che io potrei anche avere soldi, insomma, riuscire ad avere i soldi, io non posseggo nulla, insomma, posseggo soltanto il mio lavoro e la mia, diciamo, professionalità. Ora, se questi contributi non pagati arrivano ad Equitalia, cioè vanno in cartella, Equitalia ci aggiunge tutte le multe. Esattamente. Di tutti i tipi, insomma, stradali, di qualunque tipo, amministrative, le moltiplica per non so quanto, arrivano cartelle di, non so, 5, 10, 15 mila euro da pagare, e tu praticamente non riesci a pagare. No, tu a quel punto non riesci mai più a pagare quello che non hai potuto pagare per un secondo, e nel frattempo non puoi lavorare, quindi non puoi naturalmente avere i proventi per cui lavorare. Quindi è un loop che si avvita. L'abbiamo descritto mille volte, e la sordità sul DURC dello Stato è un'altra conferma delle cose che, malgrado in questi mesi ci siamo sgolati, in realtà poi non cambia niente. Però questo non significa che noi non continuiamo a darne rilevanza. E mentre riparte di Zend, vi leggo questo messaggio: 48 anni, 33 di contributi, faccio il camionista. Ieri ho presentato domanda a una multinazionale dando disponibilità a lavorare in ogni parte del mondo. No, non sono disperato. Certo, però non riesco più a pagare né le spese correnti né quelle straordinarie. Spero e prego che mi mandino dovunque nel mondo piuttosto che continuare ad andare avanti così. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Sentiamo Giuseppe che ci chiama da Milano. Prego Giuseppe. Giuseppe fa l'architetto. Sì, buongiorno dottor Giannino. Approfitto di questa occasione per dire qualcosa riguardo al settore dell'edilizia, che è profondamente in crisi, come ben lei sa, e come purtroppo anche piccoli studi come il mio, che hanno sempre, io ho sempre dichiarato all'incirca attorno ai 120.000 euro all'anno, per cui una cifra secondo la quale per lo Stato io sarei uno dei contribuenti fortunati, perché siamo talmente in pochi a dichiarare questi soldi. Però a conti fatti, quando mi mettevo a verificare da questi 120 di imponibile l'utile che mi rimaneva in tasca, forse non arrivavo neanche a 50.000. Ma non posso lamentarmi, perché se abbiamo IRAP e Cassa Nazionale Architetti da dover pagare, poi i conti sono presto fatti. Però brevemente per dire che la nostra è una professione profondamente in crisi, perché ad oggi sostanzialmente io sono nelle condizioni della giovane ingegnere che ha parlato nella prima parte della trasmissione, per cui con 35.000 euro di fatturato qui in Italia non si va da nessuna parte. E allora la riflessione qual era? A questo punto non ci rimane che provare ad andare all'estero, e quindi visto che non c'è alcuna tutela per noi, si parla di chi viene messo in cassa integrazione, di chi perde il lavoro nei grossi gruppi industriali, ma questa maggioranza silenziosa fatta di consulenti, professionisti, che comunque si riducono le entrate in maniera così vertiginosa come ci è accaduto in questi anni, di noi si parla ben poco, e siamo in tanti. E la vergogna sopportare anche di essere, vedere figure grottesche che partecipano a trasmissioni radiofoniche o televisive, che comunque non si rendono conto della gravità della situazione, fa veramente arrabbiare. Quando lei dice che poi Grillo avrà tanti grillini a supportarlo, è perché questo, guardi, no, non mancano certo delle buone ragioni per aver spinto tantissimi italiani a vedere in Grillo il Movimento 5 Stelle una scopa per levare la polvere, la sporcizia. Posso essere o meno d'accordo sui 5 punti, io non lo sono, ma comunque sia è indubbio che l'evidenza della drammaticità che viviamo e della sproporzione di consapevolezza da parte del sistema politico istituzionale rispetto a ciò che avviene nell'economia e nella società italiana le dà ragione, secondo me. Quindi io ho degli amici architetti a Roma, giovani architetti, che hanno scelto di lavorare soprattutto sull'estero, nei paesi Kazakistan, Azerbaijan, quei paesi lì dove un elemento integrato non solo di arredo casa, ma anche collegato magari all'export italiano eccetera, consente a professionisti di lavorare con ritorni assai maggiori di quanto non siano oggi gli stentati margini di un settore che invece che anticiclico abbiamo trasformato in uno dei settori più in crisi dell'economia italiana, visto che abbiamo al sesto anno di segno meno consecutivo nel sistema dell'edilizia. Allora, Fabrizio da Varese? Sì, buongiorno. Buongiorno. Guardi, sto andando adesso dal mio commercialista, che ho in mano dall'Agenzia delle Entrate una multa da pagare, però volevo intervenire in merito a quello che succede oggi in Italia da parte della giustizia. Io sono ingegnere, ho laureato, 38 anni, 3 figli, sono un artigiano. Nel 2005 abbiamo costruito un capannone per sviluppare la nostra attività, e purtroppo siamo rimasti ingabolati, perché siamo rimasti ingabolati con il costruttore, non ci ha rilasciato le certificazioni, il capannone oggi sta avendo seri problemi strutturali, siamo e in causa. Siete siamo in causa. In causa, sì, siamo in causa. E ad oggi, dopo tre anni, il giudice dice: vabbè, non avete l'agibilità, non potete lavorare dentro. E noi abbiamo chiesto una procedura d'urgenza, visto la noi dobbiamo lavorare, io devo mantenere la mia famiglia, devo lavorare. No, ecco. non l'abbiamo ottenuta. Vabbè, è questo, come dire, lo Stato è sempre sensibile di fronte ai suoi ritardi, per così dire. Auguri, anche un abbraccio a Alberto Botti, che ci ha scritto: un'impresa di Venezia Mestre che ha un problema di blocco per 12 mesi per i ritardi della realizzazione del MOSE. Lui lavora appunto nel settore edilizia pubblica, ha fatto richiesta di fondi antisuicidi del Veneto, però non gli hanno dato il riconoscimento per questi fondi, non è più in condizione da settembre di pagare i suoi dipendenti. Un abbraccio ai dipendenti e ad Alberto Botti. Stato più che mai ladro! Appuntamenti a domani.